apprezzato che la vita prende male. Sì sì, tu sì che vales. Bucami la testa che rampa la finestra. Un blitz della zoccola che vive alla ginestra. Ah ah, all high tech in questo beat crea dipendenza tipo LSD. Pompa sul timpano lei doser. Se ti piace a Nova Cipiano rischi l'overdose. Mi ricordo un po' Tex, animale fedele all'uomo, Jack Rap. Rolla questa merda, chiamami Nerone perché ti accendo Roma in una serata, coglione. Mi chiamassi Pin, sarei divertente, invece sono Six, odio la gente. Vado in trip digitale tipo Aiden, tipo triptocaina, tipo Norman Jaden. Entro sulla base, chiamami terrorista. Ricercato, scancio bombe, il primo della lista. Sono un pazzo ossessionato, Al-Qaeda. Con le rime un fuori classe, Al-Qaeda. Guarda come dribbla, guarda come rima. Creo dipendenza, manco fossi cocaina. In mezzo alla strada ti ho passata autogrill. Ogni rima è cattiva, one shot, one kill. Ti metto una sta in culo e giri come un kebab. Fanculo a tutti, faccio i soldi con il rap. Ha ha ha, siamo a Six, sto scherzando. Ti metti contro noi, dopo muori come Malco. Morto di figa, sì, ma almeno quella. Cazzo pari te, che ti piace la cappella. Bella, io il papone, tu la puttanella. Vi comandiamo a piacimento, Flow Umbrella.